sui montagna a Chapairat. Neger, tedesco della Wehrmacht, mi fai morire, tu ma pensai. Tu manca tai in una imboscata, tu mi hai pesciato e la fusilata. Sono di quei che parlano no. Il commissario ieri mattina e mi ha mandato ciamali per lì. Noi siamo qui, non sente alcun. E il mi diceva sto brutto. E il mi diceva i tuoi compari non li pigliassi senza di te. Ma se parlasse, io firmo qua il tuo condono a libertà. Tu sei un fesso che sei contento di stare solo chiusa qua dentro. Sono di quei che parlano. Sono sala su in sta ratera, piena di nebbia, di frecce e di scure. Sotto sti muri passano i tram, fracassi vita del mio Milano. E il corso è strange, mangio la sera, mi senti male, sto minga in pe. Più c'è sul letto in un cantun, mi pare adesso proprio nessuno. E per chi in guerra sta sulla terra, la libertà la varna spia. Che fai?